I tre libri che voglio consigliare quest'anno sono tutti libri scritti da donne e anche che ci fanno riflettere su tematiche molto importanti. Il primo è L'unica persona nera nella stanza di Nadisha Oyangoda, una scrittrice di Milano di origini dello Sri Lanka. Il libro è stato pubblicato da 66 and Second ed è un saggio breve, quello che verrebbe chiamato in americano non fiction, nel quale l'autrice analizza cosa significa essere nera ma italiana e quindi qual è la mancanza di rappresentazione da un punto di vista mediatico e politico all'interno della nostra società, del perché ci sono tanti ragazzi e ragazze italiani, italiane, ma magari nati da genitori stranieri o anche ormai di svariate generazioni qui in Italia che non sono rappresentati in alcun modo. Sembra un argomento molto difficile, ma per chi l'ha vissuto sulla propria pelle fin dall'infanzia è qualcosa di molto semplice. La spiegazione che riesce a darci lei è luminosa ed è di una semplicità disarmante e ci fa capire tantissime cose. Un libro consigliatissimo soprattutto alla classe insegnante attuale che a volte non è preparata. E il secondo libro di cui vi voglio parlare è Earthland di Sarah Smarsh per edizioni Black Coffee. Anche questo è non fiction, forse è uno dei generi del momento. Una riflessione su cosa significa essere nata negli Stati Uniti, il paese più ricco del mondo, ma essere in quella fascia della popolazione che potrebbe essere considerata il proletariato statunitense. Lei, nata nel Kansas, da famiglia di agricoltori, vissuta povera tra poveri, non ha mai avuto una vera e propria concezione di ciò fino a quando non è riuscita ad andare a studiare e alla fine diventare scrittrice e giornalista. E narra che cosa significa essere una redneck negli Stati Uniti e quindi essere comunque a sua volta vessata e in una certa maniera discriminata dal resto della classe media borghese americana, e anche una rappresentazione di qual è il ruolo della donna in questo tipo di società, come sua madre che ha avuto lei quando aveva 17 anni, a sua volta sua nonna che ha avuto la madre quando aveva 17 anni. Un libro davvero illuminante con cui fare tanti parallelismi con l'Italia. Io da pugliese ho rivisto tante cose anche delle campagne delle mie parti. E ultimo consiglio lampo, ieri è morta Belux, attivista e scrittrice afroamericana che ha scritto delle pietre miliari del femminismo intersezionale, e da poco è uscito in libreria per Tamo Edizioni Il femminismo è per tutti, un piccolo compendio che riesce a rendere molto semplice e chiaro il perché una società femminista sia una società più giusta e nella quale chiunque può trarre vantaggio. Vi ringrazio e buone feste.